punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Benvenuto 2012, benvenuti a voi cari ascoltatori di Radio 24 per il primo appuntamento dell'anno, ovviamente, di Punto e a Capo. Ripartiamo direi a pieno ritmo, infatti nessuna tregua festiva in questa prima settimana. Crisi, crescita, occupazione, tutti i dossier e capitoli aperti che il Presidente della Repubblica Napolitano affronta fin da martedì 3 gennaio con un intervento che ha compiuto a Napoli, dove era in visita privata, e che affronta immediatamente quella che deve essere la prima preoccupazione per milioni di italiani in questo anno, appunto, appena iniziato. Allora sentiamo il Presidente della Repubblica e subito dopo il nostro Vincenzo Miglietta, che ci fa il punto sul dialogo a distanza tra governo e sindacati. Vedo che c'è una necessità ampiamente riconosciuta come comune, che è quella di ripensare tutto il tema degli ammortizzatori sociali, delle forme di sicurezza sociale da un lato, e dall'altro naturalmente di affrontare i nodi che sono stati già affrontati con l'accordo del 28 giugno tra le confederazioni sindacali, che fu un accordo sottoscritto da tutte, nessuno escluso. In attesa di confrontarsi sui contenuti, il dialogo a distanza tra governo e sindacati ha come oggetto il metodo scelto dall'esecutivo per gli incontri della prossima settimana. I tavoli separati stile Sacconi, spiega la CGIL, rendono solo tutto più complicato e più lungo. Quanto ai contenuti, aggiungono dalla confederazione guidata da Susanna Camusso, serve un piano che tamponi la crisi, crei nuovi posti per giovani e donne, dia prospettiva e speranza al paese. Pronti a discutere di tutto, replicano fonti del governo. Sulla metodologia, però, viene ribadito, si procederà con incontri bilaterali fra il ministro del welfare Fornero e le singole parti sociali. Vogliamo parlare di contenuti, commenta intanto la UIL. Al di là della forma degli incontri, spiega Angeletti, ci preoccupano la bassa produttività e i bassi salari che frenano la crescita e l'occupazione. Lasciamo stare il passato, aggiunge Bonanni. CISL, rivolto alla Camusso, la concertazione, dice ancora Bonanni, resta la nostra priorità. Pronta al confronto, si dice la Confindustria. Intendiamo affrontare i temi che si pongono oggi relativi ad una più generale riforma del mercato del lavoro, spiegano da Viale dell'Astronomia, con quello stesso spirito di apertura e dialogo che ha consentito di giungere all'accordo del giugno scorso. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È sempre più allarme e disoccupazione nel nostro paese, sono i giovani e le donne più penalizzati da questa crisi economica che colpisce duramente il mercato del lavoro. Un giovane su tre di età compresa tra i 15 e i 24 anni non ha un'occupazione, si tratta solo di coloro che cercano attivamente un posto. La situazione poi si fa più grave ancora per le giovani del mezzogiorno, quindi donne del sud, quasi 4 su 10 sono disoccupate. Questa è la nuova fotografia preoccupante scattata dall'Istat sull'occupazione per il mese di novembre e nel terzo trimestre dello scorso anno. Il tasso di disoccupazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni è balzato, sempre nel mese di novembre, al 30,1%, mettendo a segno un record decisamente negativo, perché era da gennaio del 2004, anno in cui sono iniziate le serie storiche mensili, che non si registrava un dato così alto. Ma ora sentiamo sul tema del rapporto, appunto, e del dialogo governo-sindacati il commento di Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Sono sterili le polemiche sul metodo che la CGIL ha sollevato contro le scelte del Premier Monti di incontrare separatamente i sindacati sui temi della crescita, del lavoro e del welfare. L'importante è che si arrivi a quelle riforme che servono al Paese da anni con il massimo del consenso possibile. Sarà necessario rilanciare le infrastrutture, soprattutto al Sud, e l'annuncio di incentivi fiscali per chi vorrà partecipare alle prossime società è una notizia senz'altro positiva. Serviranno regole nuove anche per il lavoro, per superare dualismi tra vecchi e giovani, tra donne e uomini, tra Nord e Sud. È il tempo di forme razionali in ingresso al lavoro con tutele differenziate a seconda del tempo trascorso in azienda. Sarà importante, come ha chiesto anche il presidente Giorgio Napolitano, rivedere anche gli ammortizzatori sociali. Su questo il governo si sta impegnando. Del resto sono ancora troppi i lavoratori esclusi da sistemi di cassa integrazione e mobilità. E in questi tempi di crisi questo può davvero diventare una bomba sociale. Punto e a capo. Ed eccoci qua ancora nel nostro appuntamento del sabato, punto e a capo, dunque su questa prima settimana del 2012. L'abbiamo detto ampiamente tutto il primo mese, non solamente, ma insomma fin dal primo mese gli incontri a livello europeo sono altrettanto importanti di quelli sul fronte interno, di cui abbiamo citato appunto un aspetto nella prima parte. Monti giovedì è stato a Bruxelles, ma anche durante la settimana, il giorno precedente, è stato in realtà protagonista anche di una lunga intervista sul quotidiano francese Le Figaro, che sembrava una sorta di comunicazione all'Europa. Il punto di Sergio Nava. L'Europa ad ora più alcuna ragione di avere paura dell'Italia, e dalle colonne del quotidiano francese Le Figaro che il premier Mario Monti lancia la campagna d'inverno tricolore per riportare Roma al centro dei giochi europei dopo il declino berlusconiano, in vista del tris di incontri con i leader continentali che inizieranno domani a Parigi proprio con il presidente Sarkozy, per proseguire l'11 gennaio a Berlino con la cancelliera Merkel. Monti pone se stesso e il suo europeismo come garanzia primaria dell'azione di governo, riservando una stoccata al predecessore. L'esecutivo precedente non ha voluto ammettere la grave insufficienza della crescita e ha tralasciato le politiche di liberalizzazione. Il premier poi rassicura: i fondamentali della nostra economia sono buoni, ma riconosce che il rischio eurozona di cui l'Italia è vittima va eliminato. Proprio l'Italia è passata all'attacco nei negoziati che riprendono domani sul cosiddetto trattato salva euro, avanzando le proprie proposte. Tra queste, tenere conto dell'influenza del ciclo economico nella valutazione del ritmo di riduzione del debito, l'esenzione degli investimenti pubblici dal calcolo del deficit e una più profonda convergenza delle politiche per promuovere la competitività. I primi giorni del 2012 mantengono alta la tensione sull'eurozona. Il presidente dell'Eurogruppo Juncker lancia l'allarme su una situazione sull'orlo della recessione, ed Atene il premier Papademos avverte: se non ci sarà accordo sui nuovi aiuti, il paese fallirà entro marzo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. E ora parliamo di costi della politica, un tema molto caldo. Avete sentito su Radio 24, ne abbiamo parlato con molti ospiti nel corso di tutta questa settimana, e proprio giovedì intorno all'ora di pranzo anche Palazzo Chigi ha pubblicato una nota in cui spiegava, dice testualmente, anzi ve la leggo: per gli interventi sugli stipendi dei parlamentari la competenza appartiene alle Camere e non esistono poteri sostitutivi da parte del governo anche in caso di inerzia da parte del Parlamento. Questo lo sottolinea una nota di Palazzo Chigi, come dire, nessuna scusa, nessuna commissione, nessuna giustificazione, la scelta dell'azione sta ai parlamentari, sta all'interno del Parlamento. E proprio due esponenti parlamentari sono stati nostri ospiti a inizio settimana su questo tema. Giuliano Cazzola, deputato PDL, dice: in primo luogo i numeri non gli tornano, in discussione proprio l'idea stessa che i parlamentari italiani guadagnino più dei colleghi europei. Non sono d'accordo con il metodo, perché una commissione autorevole presieduta da il presidente dell'Istat, composta da esperti di chiara fama, non può su un argomento delicato, sensibilmente delicato, politico come questo, no? Di uscire e dire: guarda, noi non ci abbiamo capito nulla. È complesso fare un'analisi per vedere quali sono, per fare dei confronti, però nel frattempo vediamo questi dati, diamo in pasto l'opinione pubblica a questi dati che nel pomeriggio vengono sconfessati dall'ufficio stampa della Camera, cioè senza fare un confronto, non so, sul potere d'acquisto, senza fare un confronto sui sistemi fiscali. I trattamenti dei deputati sono fermi da 5 anni. È stato fatto un taglio di 1.000 euro l'anno scorso. In secondo luogo, bisogna anche distinguere tra quello che il deputato si mette in tasca e quello che spende. E da questo punto di vista è vero che c'è il malcostume degli assistenti. Si può fare meglio. Si possono stabilire delle tariffe degli assistenti che siano uguali per tutte, no? E che ci sia un mansionario degli assistenti, e poi gli assistenti devono essere pagati, credo, dall'istituzione. Il deputato vive nel mondo, quindi adesso non è che ci sono state delle leggi che hanno tagliato gli stipendi ai lavoratori italiani, quindi se ci sono tasse in più, se la benzina costa più cara, Queste cose gravano anche sul deputato. I tagli che sono stati fatti alle pensioni li abbiamo anche noi. Questo era Giuliano Cazzola, ricordo deputato PDL. Nel corso della trasmissione anche molti interventi, molte telefonate, molti messaggi, per niente convinti i nostri ascoltatori su quest'ultima parte. Poi è intervenuto anche Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori, che dice ci sono molte zone su cui intervenire. Da una parte, in primo luogo, in tempi molto rapidi, proprio sul tema degli assistenti, che a detta degli stessi politici sono regolarmente al lavoro solo in circa il 15-20% dei casi, quindi generano un 80% di lavoratori in nero, di una spesa che, come sapete, passa dal deputato e che è lui a gestire in autonomia. Questo è un'area di intervento immediata, ma non solamente questa. Sentiamo Borghesi. Guardi, innanzitutto il problema secondo me è un problema di natura politica, quindi tutti fanno i sacrifici, è inutile star lì a guardare che cosa succede in Europa oppure no, se i sacrifici devono essere fatti li devono fare anche i parlamentari, e il sacrificio vuol dire percepire meno di quanto si percepisce oggi. Per me è immediato, perché nel momento in cui l'indennità è quella che abbiamo detto, circa 5.000 euro, e si toglie di mezzo quest'area grigia che è data da questi rimborsi spese senza tasse, che come ho detto sui quali ci sono degli abusi enormi, si eliminino questi abusi alla radice e immediatamente il costo, le garantisco che cala, e cala in ragione del fatto che tutti coloro che intascavano questi soldi come reddito non potranno più farlo. È evidente che è immediata la cosa, e poi si intervenga davvero alla radice sui vitalizi, ripeto, stabilendo che il sistema contributivo vale anche per il passato, non solo per il presente e per il futuro, e anche quello vuol dire 200 milioni di euro all'anno in meno per i prossimi 20 anni, che non mi pare poco. No, non è poco decisamente. Enrico Giovannini, il rapporto Giovannini l'avete sentito tante volte nel corso della settimana. Giovannini è presidente dell'Istat, presidente della commissione che peraltro è stata voluta dal governo Berlusconi proprio per livellare le retribuzioni pubbliche italiane alla media europea. I dati hanno suscitato polemiche, proteste, ma sentiamo cosa ha raccontato proprio Giovannini a Valeria De Rosa, partendo proprio dalle polemiche. Sono rimasto un po' dispiaciuto di alcuni degli interventi che ho visto in questi giorni, per due ragioni. Il primo, la commissione è composta da esperti anche internazionali che non hanno interessi particolari in questa questione, ma sono a servizio dello Stato e hanno fatto del loro meglio. Lei stesso ha detto che in ogni caso si tratta di dati che sono difficilmente comparabili tra di loro. Non era meglio forse aspettare, perché poi la pubblicazione di questi dati ha dato modo alla casta per difendersi? Il nostro lavoro, come dice la legge, è di tipo tecnico. La legge ci imponeva una scadenza. Noi l'abbiamo rispettata pubblicando quello che ritenevamo pubblicabile, ancorché, come alcuni giornali hanno correttamente riportato, con una serie di note metodologiche molto dettagliate. Il punto non è questo, il punto è se queste informazioni possono essere sufficienti, ora parliamo dei parlamentari, per assumere delle decisioni. Noi crediamo che al di là del fatto di calcolare una media aritmetica ponderata, come dice la legge, che deve essere calcolata su dati perfettamente comparabili, le informazioni fornite possano essere di ausilio a chi deve prendere decisioni. Non a caso i presidenti di Camera e Senato avevano già anticipato che sulla base dei risultati, ancorché provvisori, della Commissione, nel corso del mese di gennaio avrebbero avviato una riflessione. Quindi i dati sono sufficienti non solo per dibattere nella pubblica opinione, ma anche per prendere decisioni da parte di chi queste decisioni le deve prendere. Lei comunque ritiene che sulla base di questi dati la politica possa essere in grado di adottare poi delle decisioni che inevitabilmente in questo caso sono politiche? La nostra speranza è che si superi questa richiesta alla Commissione di calcolare un unico valore che poi diventa un tetto invalicabile per norma di legge, ma che la politica e non solo il Parlamento assuma le proprie responsabilità decidendo autonomamente quanto devono essere i compensi dei parlamentari o dei funzionari pubblici, come gestire i rimborsi, come gestire le spese per i segretari, cosiddetti portaborse, e mi sembra che, ripeto, i presidenti di Camera e Senato abbiano preso un impegno molto forte in questa direzione. Punto e a capo. Insomma, è chiaro, dice Giovannini, gli elementi ci sono e sono sufficienti, ma come la nota peraltro del primo ministro, le scelte spettano, vanno trovate le assunzioni di responsabilità, spettano al Parlamento e ai parlamentari. Cambiamo tema e parliamo dell'operazione messa in campo a Cortina lo scorso 30 dicembre dall'Agenzia delle Entrate, 80 agenti per controllare 35 esercizi commerciali su un totale di quasi 1000 presenti nella località turistica delle Dolomiti. La verifica degli scontrini ha prodotto risultati abbastanza particolari. Sentiamo. Prendi un 30 dicembre come un altro a Cortina. Una manciata di agenti dell'Agenzia delle Entrate e una lista ristretta di esercizi commerciali da visitare. Davvero strano quanto accaduto. Proprio il 30 dicembre gli incassi sono schizzati alle stelle, ovunque. Bar, ristoranti, farmacie, alberghi, gioiellerie. Addirittura più 400% rispetto a un anno fa e più 100% rispetto al giorno prima. Pensare male è peccato e Giovanni Sansò, direttore dell'Agenzia delle Entrate del Veneto, ci spiega a cosa serve questo tipo di controllo. Serve come dati per poi sviluppare quelli che potrebbero essere i nostri futuri accertamenti. Il contribuente, nel momento in cui ci sono dei dati discordanti, viene chiamato, c'è un contraddittorio, si discute, produce documenti giustificativi e laddove non è necessario proseguire il tutto viene archiviato. E buona fortuna a questi contribuenti. Gli agenti hanno controllato anche 251 auto di lusso. Qualcuno tra i proprietari dichiara meno di 30.000 euro l'anno. Altri, più fortunati con il lavoro, 50.000 euro lordi. Alcune vetture sono risultate intestate a società che negli ultimi due anni hanno dichiarato solo perdite. C'è una discordanza tra il reddito dichiarato e quello che poi sono i beni che uno acquista. Se si dimostra come è stato acquistato, per carità, nulla questio. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da Cortina a Genova, la crisi di Fincantieri, mercoledì ferma per qualche ora l'aeroporto, ma la cosa più grave non è questa, ma la crisi profonda di questo settore chiave per la Liguria e non solamente. Sentiamo. Dallo stabilimento all'aeroporto, un corteo di poche centinaia di metri promosso dalla FIOM, poi l'occupazione dello scalo. Sbarrati gli accessi ai gate, bloccati i voli in partenza, gli aerei in arrivo dirottati in altri aeroporti. Tensione e rabbia tra i passeggeri, con le tute blu di Fincantieri pronte a proseguire ad oltranza finché da Roma non fosse giunta la convocazione ufficiale dei sindacati al Ministero per lo Sviluppo Economico, un incontro promesso ma mai fissato. In ballo le prospettive dell'intero comparto della cantieristica e a metà pomeriggio l'annuncio al megafono. Io ho qui davanti un comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico. Fincantieri Mise convoca tavolo nazionale per il 10 gennaio per fare il punto della situazione complessiva della società Fincantieri. Così dopo sei ore al Cristoforo Colombo si è ripreso a volare con una coda di polemiche sindacali. La CISL ha definito l'occupazione dell'aeroporto una protesta ingiustificata. Da giorni i lavoratori della Fincantieri di Sestri Ponente sono tornati a mobilitarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali minati dalla mancanza di commesse e da piani industriali che prevedono un drastico ridimensionamento produttivo a favore di altri stabilimenti. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Punto e a capo. Ripartiamo dallo scenario internazionale, ci spostiamo in Africa con Nessun Luogo è Lontano. Questa settimana Giampaolo Musumeci ci ha raccontato gli eventi, ma anche i retroscena degli eventi in Nigeria. Lo ricordate, attentati anticristiani, un paese di un'enorme complessità. Sentiamo allora questo contributo. What we have done today is to open the register of our protest against the satanic subsidy removal. It's goodbye to cheap subsidized petrol for tens of millions of Nigerians. Che cosa accade nel più grande, nel più popoloso paese africano? Le due grandi sfide di Goodluck Jonathan e il presidente sono gestire quelle che sono le proteste che sono iniziate oggi dopo il taglio ai sussidi alla benzina e quindi il prezzo del carburante che ha la pompa è praticamente raddoppiato se non triplicato, con tutte le conseguenze del caso. E dall'altra parte la crescente minaccia dell'estremismo islamico targato Boko Haram. Alessio Fabiano, quanto sono cruciali queste due sfide per il governo nigeriano? Fabiano è esperto di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Come giustamente sottolineato, si tratta di due situazioni molto delicate per il governo di Jonathan Goodluck, e comunque io tenderei a distinguere quella che è la rivolta di Boko Haram dalla crisi dei prezzi, perché la rivolta di Boko Haram ha una radice eminentemente di tipo religiosa, mentre la rivolta dei prezzi ha una radice di tipo economico, anche se poi questa setta religiosa che si rifà all'islamismo più radicale potrebbe effettivamente cavalcare una situazione di disagio, di malcontento. Però alcuni analisti già si stanno lanciando in speculazioni dicendo che, dato che Boko Haram è, come dire, molto brava, molto efficace come formazione estremista nel cavalcare il malcontento, il disagio, la povertà del nord, insomma questo aumento dei prezzi che potrebbe mettere in ginocchio il paese nei prossimi giorni potrebbe dare linfa vitale, del caso di dire carburante, alla operazione di Boko Haram. Ascoltiamo insieme Isacco Lawale Albert, che è professore all'Università di Badan, esperto di storia africana e analisi dei conflitti. È probabile che Boko Haram ottenga più consenso perché la gente è frustrata e Boko Haram tenterà di cavalcare questa frustrazione. Si pensa che questa crisi spazzerà via anche il problema del terrorismo, ma non sarà così perché il governo non se ne occupa. Abbiamo paura di finire tutti i nostri soldi, la gente è afflitta. Non si riesce a governare un popolo se lo si spinge alla disperazione. Questo è il problema che stiamo affrontando. Dobbiamo pregare Dio di aiutarci a uscire da questa situazione. Come andrà quest'anno, questo 2012, per la Nigeria con queste due grandi sfide? Spirerà poi quel vento di rivoluzione che non è mai arrivato, quello magrebino, quello del mondo arabo, che poi nell'Africa nera non è mai spirato? La vedo molto dura, perché diciamo ogni rivoluzione ha delle connotazioni ben precise, però credo che l'anno che verrà, l'anno che si è appena aperto, il 2012, sarà un anno sicuramente che ci riserverà delle sorprese negative per quanto riguarda la Nigeria. Chi sarà l'anti-Obama nel voto presidenziale del mese di novembre? Nello stato dell'Iowa è iniziata la corsa repubblicana appunto verso questo cruciale appuntamento. Dopo la vittoria di strettissimo margine, pensate, 8 voti di Mitt Romney in campo repubblicano al caucus dell'Iowa, la battaglia si sposta già nel New Hampshire. Rick Santorum, la vera grande sorpresa del risultato dell'Iowa, è già a fare campagna e cominciano a delinearsi alcune posizioni. La prima, intanto, Mitt Romney ha incassato ieri mattina l'appoggio, l'endorsement del senatore ed ex candidato alla presidenza John McCain, un endorsement importante anche se McCain ormai è una figura che appartiene un po' al passato. Ma la notizia più importante è questa. Last night the people of Iowa spoke with a very clear voice and so I have decided to stand aside. Michelle Bachmann ha annunciato che si ritira dalla campagna elettorale per la nomination repubblicana. Michelle Bachmann, tipartista dell'Iowa, questa donna che sembrava potesse prendere il posto di Sarah Palin, è una super conservatrice, strareligiosa. Tuttavia Michelle Bachmann non ha fatto bene in Iowa, suo stato natale, e dunque è la prima a gettare la spugna. Perché vi menziono questi due aspetti? Perché in chiave dinamica sarà molto importante capire chi resta e chi esce in funzione degli altri candidati. Rick Santorum da solo non ce la fa. La situazione all'interno del Partito Repubblicano è molto chiara. Da una parte abbiamo Mitt Romney che cerca di conquistare il centro, dall'altra ci sono i candidati proprio di destra, Rick Perry, Michelle Bachmann che ha lasciato, Rick Santorum e naturalmente Newt Gingrich. Ecco, costoro hanno conquistato addirittura il 75% tutti insieme del voto repubblicano dell'Iowa, però sono divisi fra loro. Santorum però ci dà dentro fino in fondo, cerca di cavalcare l'onda della vittoria dell'Iowa e cerca di proporsi come il candidato che può unire questa destra repubblicana, questa destra agitata, questa destra divisa, questa destra che cerca di imporsi sul partito, ma che pone anche un rischio non da poco, e cioè, essendo le posizioni di questi candidati molto estreme e non condivise dalla maggioranza degli americani, qual è il rischio? È che se vincesse uno di loro, poi costui perderebbe le elezioni di novembre. Ecco il punto su questa corsa che ci ha fatto Mario Platero, corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 ore, e Stati Uniti ben presente anche nella tensione di inizio anno, proprio nei primissimi giorni dell'anno, nel Golfo Persico, dove si sono completate le manovre iraniane, e la reazione degli Stati Uniti, che ha annunciato l'invio di una portaerei nell'area dello stretto di Hormuz. Sentiamo Alberto Negri. Si potrebbe dire che questa è una prova di forza, ma dall'altra parte è anche un segnale di debolezza. Segnale di forza perché l'Iran cerca in qualche modo di far capire che, nonostante i tentativi di isolamento, è in grado comunque, per esempio, di bloccare lo stretto di Hormuz o di provocare dei problemi alla comunità internazionale, ma anche segnali di debolezza interni, segnali di problemi interni. Si va verso la campagna elettorale per le elezioni politiche di primavera, c'è uno scontro in atto ormai abbastanza chiaro tra la guida suprema di Khamenei e il presidente Mahmoud Ahmadinejad, quindi ci sono indicazioni che tutte queste sfide lanciate dall'Iran sia anche il sintomo di un forte nervosismo. Che cosa può portare dal punto di vista positivo l'Iran in questo momento dalla sua parte? Il prezzo del petrolio, intorno ai $100, che comunque continua a sostenere un'economia che appunto sente sempre di più le pressioni internazionali. Il dossier nucleare dell'Iran, la posizione di Israele. Abbiamo avuto ospite questa settimana l'ex ambasciatore di Israele in Italia, Avi Pasner. Le abbiamo chiesto se c'è ancora margine per la trattativa. Io vedo che fino adesso il dialogo con l'Iran non ha avuto nessun risultato. Al contrario, l'Iran ha preso questo dialogo per nascondersi dietro il dialogo e continuare con frenesia la corsa all'arma nucleare. E noi non vediamo che qui il dialogo è una possibilità, l'unica possibilità sono delle sanzioni molto forti, delle sanzioni che fanno capire all'Iran che così non può continuare, e fino adesso ci sono delle sanzioni, però le sanzioni sono troppo Troppo deboli, dice Avi Pasner. Abbiamo perso un frammento del suo intervento, ma questo era, e adesso noi ci riavviciniamo all'Italia, l'Europa. C'è un altro paese al centro, o sotto letteralmente la lente di ingrandimento in questa prima settimana dell'anno. Mi riferisco all'Ungheria, manifestazioni, proteste, presa di controllo della banca centrale da parte del governo Orban. Insomma, una situazione molto delicata. Sentiamo Roberta Pellegatta. Dopo l'approvazione da parte del Parlamento ungherese della nuova Costituzione, Bruxelles si dice molto preoccupata per la svolta nazionalista nel paese. Con le nuove regole, il sistema del premier Viktor Orban ha raggiunto il suo culmine, con tutti gli ambiti ormai gestiti dal suo clan. Anche la stampa sarebbe stata imbavagliata, oscurata l'unica radio d'opposizione nel paese, televisioni, emittenti e agenzie di stampa sono ora raggruppate in un'unica entità controllata da un fedele del primo ministro. Orban ha anche limitato i poteri della banca centrale di Budapest, condizionata dal governo, e questo è inaccettabile da parte di Bruxelles, che prima di concedere il prestito in grado di stabilizzare il fiorino in caduta libera sui mercati internazionali, intende valutare la legittimità delle novità che appaiono potenzialmente in violazione di una serie di principi fondanti dell'Unione Europea. In presenza dei presupposti giuridici potrebbero dunque scattare le procedure di infrazione. Viktor Orban, sinora tirato dritto e incurante del pressing messo in atto nelle ultime settimane dal presidente della Commissione Europea Barroso e dai vicepresidenti Reding e Rehn, ma ora il premier ungherese deve fare conti anche

Noi pensiamo che le norme che hanno introdotto nel nostro paese un sistema di completa deregolamentazione del regime degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali sono norme che giudichiamo errate. Errate in punto di metodo ed errate in punto di merito. Naturalmente un sistema di totale deregolamentazione degli orari e delle aperture è francamente insostenibile per le piccole imprese a conduzione familiare, ma non mancheranno problemi anche per le imprese di medie e grandi dimensioni che si dovranno confrontare con una crescita certa di costi a partire dal costo del lavoro in uno scenario di andamento dei consumi che invece, come prima ricordavamo, è uno scenario chiaramente e marcatamente recessivo. Dunque i costi sono certi, ma i maggiori ricavi sono decisamente incerti e comunque contenuti. Diciamola così, alla fine sicuramente i consumi delle famiglie non ripartiranno per maggiori orari di apertura dei negozi e per maggiori aperture nelle giornate domenicali e festive. In quello che è un tempo tradizionale di bilanci, Alessio Maurizi ci racconta di una delusione un po' particolare. Infatti nel 2011 sentirete anche i marziani hanno deluso. Niente terza guerra mondiale, niente contatto con gli alieni, niente fine del mondo nel 2011. Se ogni anno spopolano oroscopi e previsioni astrologiche per il futuro, è inevitabile, proprio in questi giorni, girarsi indietro e chiedersi che fine hanno fatto le previsioni dell'anno scorso. A dedicarsi a questa operazione è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Ebbene, niente fine del mondo. Il predicatore californiano Harold Camping aveva annunciato l'apocalisse per il 21 maggio. Poi si era corretto. Sarà il 21 ottobre. E invece no, siamo ancora qua. Anche i marziani hanno mancato l'appuntamento. Bob Bresny, celebrato astrologo americano, prevedeva novità sul fronte delle intelligenze extraterrestri, che però non si sono appalesate. Non solo, secondo l'interprete di Nostradamus, Manfred Dind, citato in un libro di Carlo Patrian del 95, il 2011 avrebbe visto un nuovo conflitto mondiale, che, come sappiamo, anche in questo caso, fortunatamente, non è mai scoppiato. L'astrologo Antonio Alessi ha addirittura inviato una lettera al governo per avvisare di un grosso sisma sottomarino con conseguente tsunami per il 10 di giugno, cosa che non è mai avvenuta. La più bella di tutte però è questa, la sensitiva Teodora Stefanova, apparsa spesso su Canale 5 attraverso le confidenze dell'alieno Unil San, aveva visto nel 2011 l'anno della rinascita di Berlusconi grazie all'alleanza con Casini e Rutelli. Come sono andate le cose è cronaca di questi giorni. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Che Facebook sia causa di litigi e separazione è cosa nota. Ora però sembra avviarsi a diventare anche la principale causa di divorzio, almeno in Gran Bretagna. Ne abbiamo parlato questa settimana con l'avvocato Maraffino, che abbiamo sentito a 24 mattina, era mercoledì. La notizia del 30% dei divorzi causati da Facebook è abbastanza realista. E anche in Italia diciamo che l'utilizzo di internet ha in qualche modo cambiato anche la dinamica delle coppie. 2 anni fa insomma Facebook contribuiva in qualche modo all'aggravarsi delle crisi coniugali. Ecco, che vuol dire divorzio da Facebook? Ci faccia un esempio pratico. Allora, diciamo che il nostro codice civile è così insomma leggermente diverso da quello inglese, però gli esempi insomma sono simili. Cioè è previsto l'obbligo di fedeltà tra coniugi. Ora, l'obbligo di fedeltà tra coniugi può interrompersi anche in caso di un utilizzo ossessivo dei social network, in questo caso Facebook o Twitter. Quindi anche in Italia una separazione può essere addirittura addebitata ad uno dei coniugi per un utilizzo improprio di internet. Cioè, utilizzo improprio vuol dire scrivere su Facebook all'amante, tanto per intenderci, allora, o vuol dire anche parlare di altri temi, perché non mi è chiaro questo punto. Allora, scrivere su Facebook all'amante, ovviamente ci sono delle prove che va bene, possono essere prodotte in giudizio, per cui la corrispondenza privata tra coniugi difficilmente potrebbe essere acquisita dal giudice. Però in realtà il fatto importante della ricerca, che emerge appunto dalla ricerca inglese, ma che insomma sulla base della mia esperienza può essere tradotta anche in Italia, è che in realtà un utilizzo, cioè se uno dei due coniugi sta troppo su internet, in particolare su Facebook, già solo questo atteggiamento può essere causa di addebito della separazione. Quindi indipendentemente dal contenuto dei post. Esatto, l'obbligo di fedeltà può essere incrinato anche semplicemente dal fatto che uno dei coniugi trascuri l'altro, perché per esempio ogni sera invece di parlare, quindi dedicare un tempo insomma considerevole della giornata al partner, preferisce per esempio passarlo su Facebook. Quindi già questo può essere una causa, un motivo della rottura di un rapporto. E in Italia sono proprio questi gli atteggiamenti che stanno prendendo campo, e quindi l'aspetto rilevante è proprio il passare, e questo, su questo la Cassazione si è già espressa, cioè quello che rileva non è tanto l'adulterio di per sé, ma può essere anche il cosiddetto adulterio virtuale o anche un tentativo di tradimento che si esplica appunto attraverso un utilizzo di internet in modo eccessivo. Utilizzo improprio di internet, e in conclusione sentiamo un assaggio da GR Spettacoli questa settimana curato da Elisabetta Fiorito. GR Spettacoli. So the day has finally come, with my past I've drawn the sum, and I'm glad I'm moving. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dal GR Spettacoli. Iniziamo con la musica. Elisa nelle vesti di Angelo Custode di un 17enne problematico in Love is Requited. È l'ultimo video della cantante italiana in inglese girato a New York, che farà da colonna sonora al film di Roberto Faenza Un giorno questo dolore ti sarà utile, in uscita a febbraio nelle sale. Nella clip Elisa vestita di bianco a piedi scalzi vigila su James Vack tra i grattacieli di New York, ripercorrendo l'atmosfera della pellicola di Faenza tratta dall'omonimo romanzo di Peter Cameron. Bene, con questo abbiamo concluso. Grazie a Valeria Bernardi in regia, a tutti voi naturalmente cari ascoltatori. L'appuntamento con Punto a Capo, come sempre, sabato prossimo, poco dopo le 9. E nel frattempo un ottimo augurio di primo fine settimana dell'anno a tutti voi. Ci sentiamo sabato prossimo, a presto.